sono buona. Paparazzi, paparazzi, in bandore, o che appaiono un capuan, o un capocoan, ma tu mangi, un guaguacce, che non c'è. Rakyat nukar